Allora, la messa in scena, io ho evitato volutamente di creare un'ambientazione cioè, realistica e quindi ho evitato di creare appunto un ambiente manicomiale, diciamo, cinematografico, se vogliamo dire così. Io ho preferito creare comunque un'atmosfera tra il fiabesco e sì, il poetico, onirico, ecco, e però avendo degli elementi che rimandano, evocano sicuramente gli ospedali psichiatrici. Quindi faccio un esempio, che senti, intendo, l'ambientazione è completamente bianca, siamo comunque in una grande specie di ventre bianco e ci sono delle reti, due letti, che rimandano ai letti di contenzione, ma che non vengono mai usati in scena come letti. Quindi, in alcuni momenti diventano dei cancelli del manicomio, in altri momenti diventano la sua casa, in altri momenti, insomma, sono delle cornici come se fossero le cornici di un quadro, in altri momenti degli altari, insomma, diventano tante cose tranne che letti in modo didascalico. E poi, non so, quando descrivo il momento del bagno, il momento in cui le genti venivano lavate, che in realtà era un momento di tortura vera e propria, è un momento che descrivo sia in modo narrativo, sia attraverso una bellissima poesia che lei ha lasciato, che è struggente, che descrive questo momento. In realtà uso l'acqua, uso il sapone, ma poi faccio delle bolle di sapone in scena, cioè cerco sempre di cogliere, cioè di alleggerire il racconto, perché credo che lei abbia avuto questa grande qualità in qualche modo di reagire a questo inferno in un modo sia combattivo dall'altro, sia anche ironico, sia con lo sberleffo. Diciamo, l'ambientazione appunto ci sono tantissimi petali di rose sul palco, perché lei cita costantemente i fiori, perché cita i colori, il fatto che lei è innamoratissima dei colori, cita questo parco nel quale erano inglobati i padiglioni, pieno di rose, pieno di. Quindi in realtà ci sono elementi di grande vitalità, quindi come i colori, i fiori, eccetera, e poi ci sono questi elementi acidi, freddi, il metallo dei letti, il metallo del secchio con cui poi io farò le bolle di sapone, ma insomma, con cui veniva lavata, il metallo, il rosso però del sangue, dell'amore, anche del rossetto stesso, perché poi la Merini era una che si divertiva moltissimo, una volta usciva dal manicomio a mettersi lo smalto, a mettersi lo rossetto, a mettersi le collane, eccetera. Quindi poi insomma, ormai ce la ricordiamo che negli ultimi 10 anni era diventata quasi un personaggio mediatico. Sì. Devo dire, a lei non mi pare abbia mai creduto fino in fondo, insomma, cioè, ha sempre molto giocato questa fama che le è arrivata assai tardi, in realtà, Sì. rispetto alla sua potenza. Marzia, in Quindi questo. chiusura, per seguire questo progetto c'è un sito internet, una pagina Facebook? Sì, allora, dunque, c'è una pagina Facebook che è Marzia Ercolani, Atto Nomade Teatro, Atto Nomade è la mia compagnia, quindi sono io e una serie di collaboratori che sono all'interno della compagnia, dove ovviamente potete trovare su questo progetto che è il 9 appunto maggio, che poi a brevissimo, bisogna sapere poi, sempre sulla pagina, verrà rifatto anche il manicomio, proprio l'ex manicomio della provincia, ossia Santa Maria della Pietà. 9 maggio al Teatro della Visitazione, e poi ho un sito che è www.marzercolani.com, sul quale ovviamente io poi aggiorno costantemente con questa data e altri progetti che sono in corso parallelamente. Ecco, questo. Allora, un saluto, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, speriamo che il lupo insomma ululi da noi, e vi aspetto tutti quanti in teatro, e anche la follia merita i suoi applausi. Ciao Marzia. Ciao, ciao Federico, grazie.